24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero, del tacchino, quella di Bersani, già. L'ha capita? Farò un master in bersanese. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci, sono le 6:34 minuti e siamo qui anche oggi belli svegli. C'è la nostra Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. E siamo tutti qui pronti a stare con voi fino alle 9. 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi, come sapete. Siamo anche pronti ad ascoltare il solito consiglio del Presidente del Consiglio. But please relax. Sempre, sempre. Ovviamente apriamo il nostro bar, Bar Condicio, con la nostra Nicole Minetti che... Che offre il caffè a tutti quanti ormai da chissà quanti mesi, chi lo sa. Tanto questa è una battuta e paga la regione. No, non è così, non è così. Ovviamente vogliamo salutare oggi i nostri primi due clienti, possiamo dire, no? Voglio salutare Ernesto Auci, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Allora, Ernesto Auci, che è candidato per Monti nel Piemonte, ma poi insomma è stato anche direttore del Sole 24, è un po' qua di casa, nel nostro sì, bar, sì. Si può dire così. Saluto anche Matteo Salvini della Lega, buongiorno Salvini, ben ritrovato. Buongiorno Milano, saluta. Allora, qua vabbè, i giornali come potete immaginare aprono tutti, ma non solo in Italia, immagino anche molti nel mondo, sulla vicenda del Papa, lascia Papa Benedetto XVI, è per il bene della Chiesa, titola il Sole 24 Ore, ma si va, insomma, l'addio del Papa deciso un anno fa sulla stampa, il giornale è più a caratteri cubitali, il Papa scende dalla croce, amen. Oppure il Corriere, non ho più le forze, perdonatemi. Parleremo magari anche di questo gesto e tra l'altro noi ne parleremo approfonditamente poi alle 8:30. Però io, visto che ha un po' oscurato la campagna elettorale, Auci, questa ovviamente oggi... Notizia storica, diciamo, effettivamente un avvenimento non solo inatteso ma molto importante per la Chiesa, perché... dimissioni del Papa non ce ne sono da molti secoli. Si pensava fosse incredibile, invece ci sono state nella storia, ma insomma da tantissimi secoli effettivamente. Celestino Guido poi è un po' un'altra cosa. Qui siamo nell'era moderna e nell'era moderna non ci sono. Sono dimissioni che certo introducono nella Chiesa un qualche cosa di nuovo. Il Papa non si è mai dimesso, invece diventa un po' come un presidente, no, di una grande impresa o di un paese che a un certo punto decide per motivi propri, ovviamente. Qui si tratta anche anche un'età avanzatissima, insomma, e nello stesso tempo c'è una Chiesa che probabilmente manifesta esigenze molto diverse dal passato, e soprattutto mi pare una Chiesa che deve affrontare una modernità e non sa bene come affrontarla. No, ma la portata è senza dubbio storica. Non so, Salvini, anche lei, come ha accolto questa notizia che ha davvero oscurato oggi, almeno per un giorno, la campagna elettorale sui giornali? Ma con stupore e dispiacere. Dispiacere perché, pur da ultimo dei buoni cattolici, da divorziato, da persona che va messa due volte all'anno, comunque ritengo che Benedetto XVI abbia detto, abbia testimoniato e abbia fatto tanto. Dispiacere, perché anche in questo caso ci sono stati centinaia di commenti di politici che almeno sull'abdicazione del Papa se la sarebbero potuta risparmiare. Preoccupazione, perché quello che qualcuno vende per progresso, per la Chiesa che si dovrebbe modernizzare, ecco, diciamocela tutta, se la Chiesa del progresso deve essere quella che che parla ad esempio di adozioni per le coppie gay non è progresso ma è regresso per quanto mi riguarda, con tutta la buona volontà. Nessuno nella Chiesa ne ha parlato, eh. Ma leggo che qualche commentatore dice che la Chiesa si dovrebbe aprire al mondo e al futuro. No, vabbè, ecco, con tutta l'apertura mentale possibile, secondo me non è quello. No, ma anche perché la Chiesa fa la Chiesa, ecco, se possiamo, il Vaticano non si aprirà mai a questo. Il dato meritorio è che almeno ci ha risparmiato il quarto d'ora di gesta di Mario Monti su tutti i telegiornali. Ah, eccolo lì, subito, è entrato a gamba tesa, è entrato a gamba tesa. No, visto che si è nominato Mario Monti, l'accusa, Auci, e voglio far sentire subito un audio di Berlusconi, è quello di guardare sempre all'Europa. Allora, che cosa ha detto ieri Berlusconi sullo spread? Sentiamolo, era 1 mattina. Ma non devono importarsene gli italiani dallo spread, perché lo spread dipende. Quello che deve importare è l'interesse che lo Stato deve pagare sui titoli in emissione, che è al 4,30, qualcosa del genere, sarà con uno spread. Perché lo spread è la differenza tra quello che deve pagare la Banca d'Italia sui titoli di nuova emissione e quello che paga la Bundesbank sui titoli tedeschi. E non ce ne può importare di meno, lo spread è qualcosa che nessuno, non è proprio così. Se lo stravino ci ha messo. Insomma, Auci, ma che ce frega dello spread? Che ce frega dello spread? Diciamo che più che al contrario di quello che dice Salvini, forse questa cosa del Papa ci ha risparmiato l'attenzione totale alla sciocchezza giornaliera che ci propina Berlusconi, insomma. Dai condoni allo spread, alla restituzione dell'IMU, soldi per tutti, e così si fa lo sviluppo, cioè obiettivamente. Sì, ma l'accusa è, cioè, che perché dobbiamo guardare a questo spread, a questo Moloch, come un qualcosa che ci dirige, ci eterodirige da chissà quale sede estera o mondiale? Lo spread non ci dirige, eterodirige affatto, né ci sono gli gnomi di Zurigo, ma è, diciamo, la misura. È un termometro in qualche modo complesso della misura dell'affidabilità e della credibilità del paese. Lo spread lo fanno anche i tanti risparmiatori italiani che si fidano o non si fidano dell'Italia, di investire in Italia, di comprare non solo i titoli di Stato ma anche obbligazioni italiane, delle aziende, delle banche italiane. È tutta la scala dei tassi di interesse che si muove con lo spread, nel senso che se noi abbiamo uno spread di 300 punti rispetto a quelli tedeschi, vuol dire che i nostri tassi di interesse aumentano, sì, no, rispetto a quelli tedeschi di 300 punti. Se poi andiamo dalle banche, aumentano di più di 300 punti. Quindi, sì, come dire, quindi Salvini, capito Salvini, la questione è no, chi è caduto Salvini la linea? È caduto, vabbè, adesso lo recupero, sullo spread è caduta la linea. Ci abbiamo nominato lo spread, Salvini si è arrabbiato, ha messo giù. No, adesso lo stiamo. Non è lo spread, adesso sembra una cosa strana, in realtà sono i tassi di interesse, sì, certo. Noi abbiamo estremamente bisogno per prima cosa che i tassi di interesse. No, ma questa, ma infatti l'abbiamo recuperato Salvini, temevamo che al nominare i tassi di interesse lo spread fosse caduta la linea, così, insomma. No, ha capito, dice Auci, è una questione centrale, ma come chi se ne frega dello spread? Come sempre la verità sta nel mezzo, è una delle questioni, perché io posso arrivare a spread zero, ma lo dico da europarlamentare, se per fare questo sbraco e cedo su tutto il resto della linea, se cedo sull'importazione del riso dall'estero, dell'ortofrutta dall'estero, del tessile dall'estero, delle calzature dall'estero, se cedo sulla direttiva europea sugli appalti e lascio tutto alle multinazionali straniere, se cedo sui diritti della pesca, se cedo sull'agricoltura, se calo le braghe su tutto a Bruxelles, come è accaduto in questo ultimo anno, soprattutto, e lo dico da europarlamentare, alla faccia della credibilità, sì. E poi lo spread scende. Se io faccio chiudere centinaia di migliaia di imprese nel nome dello spread, Orbene, all'artigiano, al commerciante che stamattina non tira su la sala cinesca dello spread, è vero che non gliene può fregare di meno. Può fregare di meno. Allora, tra l'altro, oggi il Sole 24 Ore dà un dato molto interessante, lo so che magari a quest'ora di mattina può far sbandare qualcuno, ma è un dato significativo. Allora, Auci, i debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese, 70 miliardi di euro, 70 miliardi. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che questo Stato chiede le tasse e questo Stato però non paga poi. 70 miliardi di euro, ma com'è possibile? Cioè, che a chi andiamo a bussare? A chi vanno a bussare queste imprese quando devono prendere i soldi? Auci. Guardi, finora andavano a bussare appunto alle banche, adesso le banche non ne hanno più e quindi la cosa è diventata gravissima. Questi debiti qui, forse Salvini non si ricorda, insomma, ma sono accumulati da diversi anni, non è che sono nati quest'anno, in questo momento, l'anno scorso, certo. Sono cose che si trascinano da diversi anni e non sono mai state risolte per motivi tecnici, perché così questo debito, diciamo, non figura nel debito dello Stato, no? È un po' come mettere sotto la polvere, sotto il tappeto, dice questo, facciamo finta di niente. Sì. È chiaro che in una situazione di crisi come questa sono un disastro, cioè metà di questi debiti, 35 miliardi, sono delle regioni, quelle regioni dove si mangia lo champagne, dove si beve lo champagne, si mangiano le ostriche, cioè, e le imprese devono prendere soldi da queste regioni, 35 miliardi, e leggono i giornali, le imprese, gli imprenditori, gli italiani, i cittadini, e vedono che si mangiano le ostriche. Qua ci vorrebbe il solito Oscar Giannino. È così. Ci vuole Oscar Giannino. Basta! Basta! Basta! 24 mattino. Tengono in braccio cagnolini e guardano il lato B delle povere indifese donne. Forza Grillo, forza Giannino, tutti a casa! Quante morte ha sulla coscienza il candidato Maroni? Stanno al fondo del Mediterraneo, stanno nei deserti della Libia, che le contino bene gli elettori lombardi prima di votarlo. Dove pensa di arrivare Bersani, tirandosi dietro D'Alema, Bindi e solita vecchia compagnia? Aveva una carta vincente, quella di Renzi, ma l'ha buttata con l'imbroglio e il giochetto delle primarie. Non gli rimane altro che sbattere contro un muro, quello del Movimento 5 Stelle. Ho sentito stamattina che ci sono 186 parlamentari che non vengono ricandidati e quindi hanno un grosso problema. Arrivare a 60 anni o 65 a recuperare la pensione. Vorrei ricordare a tutti quanti che questi signori hanno delle buone uscite da centinaia di migliaia di euro. Direi che sono ben privilegiati e potessero andare a fanculo. Ci vorrebbe il kit dell'amministratore delegato e anche per i politici. Una valigia con metà soldi e l'altra parte una pistola. Se sbagli, ti levi di torno. Salve Milan, vorrei farmi portavoce, a mia insaputa naturalmente, dell'iniziativa Adottiamo un politico. Un bel guinzaglio al collo e la mattina via sul posto di lavoro. Io lo porto in sala operatoria o in rianimazione, a scelta. Poi lo consegno al contadino di Terni, che sa lui dove portarlo. Ah, un'altra cosa volevo dirti. A votare ci ritorno quando con l'acqua si riscalda il forno. Se volete riformare la mala giustizia che frena la crescita, allora non votate per i candidati avvocati. Ciao Alessandro. Le sacre scritture identificano Satana come il mentitore, l'ingannatore e il corruttore. Satana è tra di noi, tra i nostri politici. Vabbè, queste sono voci della nostra segreteria telefonica. Siamo con Ernesto Auci, che è candidato per Scelta Civica a Monti per l'Italia alla Camera in Piemonte, con Matteo Salvini, europarlamentare della Lega e segretario della Lega Nord. Salvini, ha sentito l'ascoltatore che dice Maroni? Cioè, lui c'ha i morti sulla coscienza, sì. Uno, aspetto tutti sulla mia pagina Facebook per discuterne, perché sono orgoglioso della buona politica e di fare politica e di quello che la buona politica può risolvere, quindi non mi sento né un parassita né un né un frustrato né un ladro, ma sono orgoglioso di quello che riesco a fare quotidianamente. Due, Maroni ha fatto il ministro dell'interno con i migliori risultati nella lotta alla mafia e nella lotta all'immigrazione clandestina. Però dice ascoltatore con che prezzo, cioè perché li abbiamo cacciati e sono morti nel Mediterraneo. No, dire, anzi, la linea dura contro l'immigrazione clandestina ha salvato migliaia di vite, quei morti sono sulla coscienza dei buonisti che dicevano avanti tutti c'è posto, c'è lavoro, ci sono case, e adesso vediamo a Milano piuttosto che a Roma o a Torino quanto lavoro c'era, quante case c'erano e quanti sono i reati commessi dai clandestini. Quindi quel signore lasci che i lombardi votino per quello che succede in Lombardia. Vabbè, e a proposito, certo. Milano, sì. Le regioni hanno i debiti, sì. Quali regioni? Insieme alla regione Umbria, sì. È l'unica che negli ultimi 10 anni ha avuto il bilancio in attivo, quindi col segno più davanti, regione Lombardia e regione Umbria. Regione Umbria è di centro-sinistra, quindi non mi interessano i colori, però diamo alle regioni quello che è delle regioni. Sì, no, ma certo. Quelli sono metà. No, vabbè, ci sarà la classifica. Qua non c'è, diciamo, i comuni. La proposta, visto che non basta lamentarci colpa mia, colpa tua, colpa di mia sorella, una proposta che ha fatto Maroni, visto che nelle casse dei comuni lombardi ci sono 5 miliardi di euro tenuti lì fermi dal patto di stabilità, lui si impegna a farli spendere. Sì, questi 4 miliardi, forzando anche la mano se necessario. Forzando perché 5 miliardi di euro rimettono in moto una buona parte di economia. Allora, però io voglio farvi sentire, lo so che abbiamo recuperato un Maurizio Crozza, perché c'è anche questo, c'è la settimana di Sanremo e quindi c'è anche questo in arrivo. Allora, Maurizio Crozza, sentite quando insomma invitava il Papa Benedetto XVI. Buon mattino cardinali, come state? Buongiorno, che bello vedervi, che bella luce che portate qui in questa stanza di babba. Io oggi non ho voglia di fare discorso, vi avviso, sono stanco, morto, oggi non vado. Domenica mattina papa non ce la fa andare, capito? Ma nel suo modo alla Maurizio Crozza aveva in qualche modo profetizzato del papa stanco che non ce la faceva. Auci, c'è anche questa questione dei di Sanremo, di non pagare il canone. Ha sentito che Berlusconi ha detto che sarà il festival dell'unità, cioè spera che non diventi il festival dell'unità, se no il 50% degli italiani non pagheranno il canone. Lei l'ha pagato il canone della Rai? Sì, penso di sì. No, come penso? Penso l'ha pagato, sì, come sarebbe. Pago varie cose. Ci sarà anche questo, insomma. Ci sarà anche questo. No, ma a parte che insomma la Rai adesso è un problema un pochino più ampio, non è quella questione di Sanremo. Io sono un pochino, come Giannino dice, secondo me bisogna avviare una privatizzazione seria della RAI, e guarda caso chi non vuole la privatizzazione della RAI è proprio Berlusconi, perché Mediaset è sempre vissuta, è sempre dimostrata contrarissima alla privatizzazione della RAI, proprio per ripartirsi in questo modo il mercato della pubblicità, insomma. Il problema è molto, andrebbe privatizzata, secondo lei andrebbe avviata una qualche forma di privatizzazione, ma poi la politica non controlla più la RAI come fa meglio per me, ma per la politica no. Anche per la politica, perché un paese davvero moderno non può avere un'informazione come quella che c'è in Italia, che è controllata da un lato da gente, imprenditori che fanno altri mestieri, e dall'altro dalla politica. Quindi lì bisogna mettere ordine, ed è un punto molto importante mettere ordine, dare libertà all'informazione. Sì. Salvini l'ha pagato il canone della RAI, perché ci sono vari leghisti che non lo pagano. Salvini di che linea è? Assolutamente no. No, eccolo lì, l'evasore Salvini. Ecco, Salvini. Ma è anni che... da anni che è evasore. No, perdoni, la Lega da 15 anni vota, non propone, parla a Radio 24 in campagna elettorale, presenta un disegno di legge e vota ogni manovra finanziaria per

Chiudo ricordando che trovate in edicola il Corriere della Sera, ma il comitato di redazione, cioè la rappresentanza sindacale, dice lo trovate per senso di responsabilità per quello che è successo con le notizie del Papa, perché RCS è in una situazione, almeno secondo l'amministratore delegato, di tagli poderosi. È stato annunciato, per quel che riguarda RCS, la vendita o la chiusura di 10 periodici, 800 esuberi, 640 dei quali in Italia, il resto in Spagna. Trovate sia sull'Unità Lacrime e Sangue in RCS, 800 esuberi, 10 testate KO, sia sul Sole RCS, 4 banche per l'aumento, e anche ovviamente sul Corriere, piano con 800 esuberi, questa notizia che riguarda anche uno dei maggiori quotidiani in Italia. 24 mattino. Allora, il Papa ieri, sorprendendo tutti, sorprendendo anche molti cardinali che erano all'ascolto del pontefice in questo concistoro convocato, ha annunciato questa volontà di dimettersi dal 28 febbraio, davvero un annuncio di portata storica. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta per commentare, insomma, come avete reagito a questa notizia che ha fatto letteralmente il giro del mondo e oggi è su tutte le prime pagine dei giornali. Cosa ha detto il pontefice? Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà dichiaro di rinunciare al ministero di vescovo di Roma, successore di San Pietro. Questo l'inizio delle parole che vi facciamo sentire, scandite in latino dal Papa. Qua propter bene consus pontes hus actus plena libertate dichiaro. Me ministero episcopi Rome, successore Sancti Petri, mi per manus cardinalium, di 11 aprilis bis millesimo quinto commissum, renunziare ita da die 28 febbraio bis millesimo tredicesimo ora 20 sedes Rome, sedes Sancti Petri vacet, et conclave ad illicendum novum sum pontificem, episcopibus competit convocandum esse. Insomma, diciamo che la parola rinunziare è la parola che forse più è risaltata in questo discorso del Papa. Voglio salutare la professoressa Lucetta Scaraffia, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Tra l'altro insegna alla Sapienza, editorialista anche dell'Osservatore Romano. Saluto anche Marco Lillo, che è un corista del Fatto Quotidiano, che oggi torna su questa vicenda che già un anno fa vide protagonista il Fatto. Buongiorno Marco e benvenuto. Allora, professoressa Scaraffia, visto che il Vaticano ha escluso malattie, perché il Papa ha fatto questo gesto di portata storica ed epocale, secondo lei? Perché ha sentito di non essere in grado di risolvere alcuni problemi della Chiesa che lui sentiva come pesanti ed urgenti, e quindi con grande umiltà, invece di sentirsi, diciamo, l'uomo della provvidenza, quello che avrebbe fatto tutto lui, ha rimesso la Chiesa nelle mani di Dio, cioè di quello che deciderà il suo successore. È stato un gesto di umiltà e di amore per la Chiesa molto forte, molto profondo, degno di lui, degno di questo grande teologo che è anche però un uomo di alta statura spirituale. Penso che si rendesse conto che per una serie di ragioni interne, soprattutto alla Chiesa, come è stato detto molto, ci voleva un Papa più forte, più capace di decidere, cioè non un Papa anziano e con poca energia. E forse si dice meno teologo e più in grado di gestire quelle pratiche quotidiane che poi soprattutto purtroppo nell'ultimo anno per la Chiesa si sono anche rivelate degli scandali veri e propri. Può anche essere teologo, ma una persona di 86 anni ovviamente ha dei problemi a prendere decisioni difficili, dure e solitarie. Non ce la fa, ecco, ci sono anche dei limiti fisici e psichici, anche se il Papa è lucidissimo e capisce tutto quello che dovrebbe fare, però non ha la forza di farlo. È ammesso che, non avendo la forza di farlo, era meglio che lo facesse qualcun altro. Sì, detto con questa semplicità, si è cresciuti con l'idea, anche se ci sono precedenti nella storia, ma si era cresciuti con l'idea, no, non per essere, ma morto un Papa se ne fa un altro. Sì. E invece questa idea non vale. Se ne fa un altro anche se non è morto. Si è cresciuti con questa idea del Papa che porta la croce fino all'ultimo, se la si vuole dare come una rappresentazione cristiana. Però comunque, forse lui ha visto anche la lunga fine del pontificato di Wojtyła, che per la Curia Romana non è stato un bene. È stato un bene dal punto di vista simbolico, perché ha rappresentato il valore della malattia della vecchiaia davanti a tutto il mondo. Sì. Però dal punto di vista invece del funzionamento della curia non è stato un punto di sbandamento molto forte. Allora, sì, diciamo, come scrive anche oggi Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, visto il predecessore Papa Wojtyła, non ha voluto offrire la stessa immagine, probabilmente. Sì. Cioè già l'aveva fatto Wojtyła, quindi non era il caso di ripetere il lungo declino, e forse ha pensato di più al bene della Chiesa. Allora, era il 12 gennaio, era il gennaio comunque del 2012, un anno fa, quando sul Fatto Quotidiano Marco Lillo, voi titolaste, c'è cioè un complotto di morte, cioè proprio un mord complot, perché questo era scritto in un appunto che un cardinale, il cardinale colombiano Hoyos, consegnò al Papa Benedetto XVI, dicendo che c'era un altro cardinale, il cardinale Romeo, che andava in giro a dire che nel giro di un anno ci sarebbe stato una sorta di proprio la scomparsa fisica di Papa Benedetto XVI. Oggi, Marco, voi riscrivete sul Fatto Quotidiano questa storia alla luce di quello che è successo ieri con una nuova interpretazione. Quale? Sì, il senso è che Romeo ha effettivamente probabilmente detto quelle parole, cioè ha detto: tra un anno Benedetto XVI non sarà più Papa, il Papa sta cercando di creare una linea di successione e il suo preferito è Angelo Scola, arcivescovo di Milano, e sostanzialmente questa era un'affermazione contenuta in questo memo che fu interpretata dagli interlocutori, ricordiamolo, cinesi, quindi c'era un problema di traduzione da parte degli interlocutori, fu interpretato come se il Papa non ci sarà più tra un anno, vuol dire che è l'unico modo perché un Papa non esista più e che muoia, e se uno lo sa prima vuol dire che c'è un complotto di morte. Questa deduzione era errata, fu portata appunto in questo memo precipitosamente dal Cardinal Castrillon al Papa. Castrillon chiese un'udienza apposita per questo, e il Papa, io racconto oggi, effettivamente uscì da questa udienza sorridendo. Nessuno capì allora questo sorriso, oggi lo capiamo tutti. Perché in realtà quel non ci sarà il Papa più tra un anno non era un complotto di morte, ma perché tutto era già nella mente lucida del Papa, che aveva già in qualche modo previsto che sarebbe andata così, no? Certamente lui aveva deciso, probabilmente, ricordiamo il memo del dicembre del 2011, quindi un anno e tre mesi fa, aveva già deciso quello che sta accadendo adesso. Probabilmente, anzi, la pubblicazione di questi documenti, questo ed altri, ha ritardato questa scelta di qualche mese, ma non di tanto. Bisogna sottolineare anche che a questo punto, visto che secondo me era vera quella parte del discorso di Romeo, riportata del memo, bisogna guardare con attenzione anche il resto di quel memo, perché si parlava di una successione un po' guidata, cioè il Papa avrebbe scelto, secondo quello che Romeo diceva ai suoi interlocutori cinesi, come successore Angelo Scola, per questo lo avrebbe portato da Venezia a Milano, proprio per prepararlo alla sua successione. Dove oggi è arcivescovo. Lillo, quanto hanno inciso gli scandali di cui si è parlato, i Vati Leaks, la fuoriuscita dei documenti vaticani pubblicati anche nel libro di Nuzzi, ma pubblicati anche da te sul Fatto Quotidiano, la vicenda anche che Papa Ratzinger ha affrontato in prima persona della pedofilia nella Chiesa, quanto hanno inciso secondo te nella decisione del Papa? Secondo me è inciso, ma in un modo differente rispetto a quello che viene sostanzialmente, ho letto qualche giornale oggi, raccontato dalla stampa. Allora, come ho detto, non penso di sbagliare se dico che non c'è altra spiegazione a quelle parole di Romeo che quella che oggi diamo noi e che oggi è evidente. Insomma, il Papa quindi aveva deciso un anno e due mesi fa, ben prima del Vatilix, tutto questo. Quindi non ha avuto alcuna influenza, nel senso che non è perché è uscito sul Fatto Quotidiano il documento che il Papa si è dimesso, al contrario, forse perché è uscito quel documento sul Fatto ha aspettato un po' di più. La scelta è a monte. E allora, secondo me, in che senso hanno influito? Hanno influito i temi raccontati nei documenti che noi abbiamo pubblicato, le lotte intestine, quello che sta accadendo dentro la Chiesa in questi giorni che non ha mai avuto precedenti e che noi abbiamo raccontato grazie a quei documenti. Cioè, come dire, è il contenuto dei documenti che ha influito, non è la pubblicazione dei documenti. Sì, è quello che c'era sotto. Professoressa Scaraffia, ricordiamo che Papa Ratzinger, proprio quando morì il predecessore, poco prima di essere nominato lui Papa, di essere eletto lui Papa, parlò di una Chiesa, adesso non ricordo le parole precise, era, ma insomma, nella processione del Venerdì Santo, ecco, parlò di una Chiesa, insomma, corrotta al suo interno. Ecco, questo diciamo, letto alla luce di quello che è successo ieri, lei che interpretazione dà? Che non è riuscito riuscito a fare tutta la pulizia che voleva. Certo, una parte era fatta, perché lo scandalo della pedofilia è stato gestito dal Papa con una grande severità, facendo venire alla luce tutte le verità, come aveva già fatto, cercato di fare quando era prefetto della propaganda della fede. E quindi dobbiamo ricordare che appena diventato Papa ha riaperto il processo contro Maciel, che era il fondatore del Legionario di Cristo, che era stato messo da parte. Lui la prima cosa che ha fatto è stato aprire il processo e portare la condanna. Quindi ricordiamoci, questo era un gesto molto chiaro. Però è una missione, lei dice, è una missione di, se vuole, di debolezza dal punto di vista del vigore fisico, che lo stesso Papa dice, non ho più per gestire gli importanti impegni della Chiesa. Non è anche una missione, però, una sorta di sconfitta, ecco, perché, come dire, se davvero non è riuscito, non riesce più a portare avanti questa missione di rinnovamento, come lui ha detto, della Chiesa, in qualche modo ha deciso di abbandonare. Papa non si sente mai solo nella sua, cioè, è un pezzo di una lunga storia, di una lunghissima storia di 2000 anni, e quindi lui si è sentito di dare il contributo che ha potuto dare, fin dove ha potuto darlo, a questa storia. Quando non lo poteva dare più, ha passato la mano. Uno, se si sente dentro una storia millenaria della Chiesa, non valuta il suo pontificato solo, diciamo, nell'ambito di pochi anni, ma all'interno di un processo molto più lungo. Marco Lillo, oggi c'è da dire che il cardinale Romeo però smentisce tutto quello che voi avete pubblicato un anno fa, dicendo che non è vero, complotto a morte, se fosse stato un complotto a morte entro un anno sarebbe dovuto già succedere tutto questo, invece siamo nel 2013, non è successo. Quindi, secondo logica, avete pubblicato un qualcosa che non è vero, secondo il cardinale. Il punto è che, appunto, avendo detto che non era un complotto a morte, ma era una dipartita volontaria del Papa, un anno dopo è esattamente il contrario, proprio questo che conferma che le parole di Romeo erano state mal interpretate, ma erano state realmente pronunciate, secondo me. Ovviamente il cardinale Romeo deve smentire, perché, ripeto, quel memo era molto, molto lungo, erano 3 pagine, e c'era questa storia della dipartita del Papa, ma poi c'era tutto un discorso relativo ai rapporti tesissimi tra il Papa e il cardinale Bertone, segretario di Stato, e c'erano dei giudizi molto duri su Bertone, e c'era anche, appunto, questa questione della successione di Scola. È chiaro che ammettere che era vero la prima parte fa sì che sia vero tutto, e non è bello per un cardinale andare in giro a parlare del Papa. Il segretario sì. di Stato sì. È una persona, addirittura, se non ricordo male, detestata, diceva, dal Papa. Ora, io una cosa che voglio sottolineare, che altrimenti vorrei uscire un po' da questa geografia che viene fatta del Vaticano, della scelta del Papa. Allora, è evidente che il Papa non sta bene, ha 85 anni, ha fatto una scelta di grandissimo coraggio e gli va riconosciuto. Dall'altro lato, se questa è una scelta in qualche modo che eleva ancora di più il Papa Benedetto XVI, secondo me abbassa però la curia, cioè il segretario di Stato Bertone, mi voglio spiegare meglio. Il Papa, sostanzialmente, questo è chiaro, lo diceva anche quel memo, proprio Romeo lo diceva ai suoi interlocutori allora, aveva fatto una scelta, si era ritirato nella dottrina, nella scrittura dei libri, nella teologia, e ha lasciato il governo della Chiesa completamente a quello che era stato quasi definito un vicepapa, una figura straordinaria mai vista precedentemente, che era appunto il sottosegretario Bertone, il segretario di Stato Bertone, che peraltro, ricordiamo, in un altro dei documenti pubblicati in quei giorni, addirittura si dà per scontato che nominasse i cardinali. E perché questo secondo te in qualche modo abbassa il livello degli affari di curia? E perché se il Papa si fosse fidato di questa diarchia, cioè se fosse stato ritenuto all'altezza a Bertone di gestire gli affari correnti, intendo dire affari importanti come quelli dello IOR, per dirne una, come quelli appunto dei rapporti con la Cina, per dirne un'altra, probabilmente il Papa avrebbe potuto continuare con questa diarchia di fatto. Invece quello che è accaduto, e a partire proprio dal caso IOR, che noi sul fatto abbiamo raccontato con documenti inediti, sconvolgenti, e che tuttora è in corso, perché lo IOR in questi giorni deve andare al rinnovo del suo consiglio ed aver lasciato una gestione non controllabile. Ma io voglio ricordare la durissima lotta che c'è stata tra il cardinale Attilio Nicora e il segretario di Stato per la nomina dello IOR. Eccoci qua, 800 24 00 24. Intanto saluto e ringrazio la professoressa Scaraffia che ci ha lasciato, ci doveva lasciare, deve prendere un treno con qualche minuto in anticipo. Siamo con Marco Lillo del Fatto Quotidiano e anche gli ascoltatori. Vorrei sentire Nicolò da Bergamo, buongiorno. Nicolò? Buongiorno, buongiorno. Dica. Buongiorno. Dunque, io ho avuto la fortuna di assistere all'ultima udienza tenuta da Papa Wojtyła, quindi il Papa precedente. Sì. Il ricordo che ho di quell'esperienza è di un Papa non più completamente padrone di se stesso. Parlo chiaramente sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale. Sì, beh, ricordiamo l'ultima fase della vita di Papa Wojtyła, proprio perché si svolse in maniera manifesta in tutto il mondo, davanti a tutto il mondo, la ricordiamo tutti. Esattamente, esattamente. Io credo un po' che la scelta di Papa Benedetto XVI sia stata dettata anche dal suo timore di andare poi a magari andare a inficiare un po' quella che era la sua figura di teologo, di persona comunque abbastanza distante da quello, sì, che è quello che vuole la contemporanea, cioè magari un Papa un po' più aperto. Perché questo per, sì, dire lei che, secondo lei Papa Ratzinger in qualche modo ha fatto bene a dire, sì, non ho più il vigore fisico per portare avanti il mio compito. Esatto, trovo che la sua scelta sia stata estremamente dignitosa e vada rispettata per quella che è, cioè lui ha avuto sostanzialmente la certezza, no, nel fare questo sì, gesto. Sì. Estremamente ponderato di fare un passo indietro, è molto chiaro. La ringrazio, Nicolò. Vorrei andare a Modena da Mauro. Buongiorno. Ah, buongiorno Milan, Mauro da Modena. Sì. Io credo che, pur non essendo credente, ritengo che sia stato veramente coraggioso, e quindi però dovuto al fatto di un decadimento psicofisico che, secondo mio parere, viene da molto lontano. Negli ultimi anni, naturalmente, il Papa Wojtyła, che non era più in condizione di portare avanti il suo papato, sì, è dovuto al fatto probabilmente che si è formato in questi anni un muro conservativo, per cui il fallimento, secondo me, lo chiamo così, però sì, sì, il fallimento di Benedetto XVI è dovuto al fatto che si è trovato di fronte veramente a un muro conservativo, che non gli hanno permesso di fare quello che lui avrebbe voluto fare. Insomma, la mancata capacità di voler rinnovare all'interno la Chiesa, come ci diceva Marco Lillo. Ecco Marco, oggi anche il Sole 24 Ore con Carlo Marroni racconta quello che accennavi tu, e cioè il fatto che si gioca molto ora della questione dello IOR, vale a dire la Banca del Vaticano, come viene conosciuta in tutto il mondo. C'è uno scontro da questo punto di vista all'interno del Vaticano, perché siamo arrivati al momento della nomina dei vertici dello IOR. Cosa si profila all'orizzonte? Beh, sicuramente bisogna sostituire il presidente dopo che Ettore Cocchieri è stato cacciato in malo modo, ma soprattutto sotto la questione IOR c'è la questione riciclaggio. Allora, bisogna spiegare che sostanzialmente quello che è accaduto è stato che il Papa, con un moto proprio, cioè con una legislazione che partiva proprio da una sua decisione, aveva istituito all'interno del Vaticano un'autorità antiriciclaggio, una normativa molto dura. Successivamente però, pochi mesi dopo, il Papa, che era stato spinto dal Cardinale Nicola a fare questo passo, e poi che aveva messo Gotti Tedeschi a capo dello IOR, proprio diciamo nella linea Nicola, è stato in qualche modo portato a una retromarcia proprio da Bertone, che ha ripreso in mano i poteri dell'antiriciclaggio alla sua segreteria di Stato e che ha sostanzialmente depotenziato l'autorità AIF, antiriciclaggio, a capo della quale c'era Nicola. Questa che io definirei una brutta figura del Vaticano e una brutta figura del Papa è stata imposta sostanzialmente dalla necessità di tutelare i clienti, i correntisti dello IOR, che ovviamente non gradivano il fatto che improvvisamente quel muro di omertà divenisse una casa dietro. Ora, è evidente che questa è un po' una semplificazione, ma sicuramente il passaggio era epocale e non si era mai visto, insomma, che un Papa venisse di fatto smentito da una norma successiva pochi mesi dopo. che rimetteva il pallino. Ed è lì su questo tema dello IOR che sicuramente si giocheranno alcuni degli scontri anche di potere che ci sono in Vaticano nei prossimi giorni. Io però mi fermo qui. Saluto e ringrazio Marco Lillo, così come ringrazio la professoressa Lucetta Scaraffia. Tra poco anche 9 in punto con Simone Spezia torna e continua a parlare di questo tema. Allora seguiteci su Twitter se volete, io sono Alino Milan, se volete c'è anche la trasmissione 24 mattino, potete riascoltare anche tutto sul sito radio24.it e ci troviamo domani alle 6.30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.